ad alta voce. Maria Paiato legge Il comunista di Guido Morselli. Decima puntata. Ferranini stava chiudendo a chiave la porta della camera. Veniva su per la tromba delle scale, dal fondo, un tanfo freddo, acetoso, di cantina. Annusò inquieto e gli parve che un soffio d'aria morta spazzasse via tutta la sua serenità. Riaperse, rientrò. Cavò la lettera. Dunque, lui criticava una decisione del partito. Perché adesso, di colpo, la conclusione si imponeva nella sua evidenza. La lettera, la direzione gliel'aveva mandata in quanto considerava Mazzola punibile, ossia colpevole. Si appoggiò col petto al tavolino, le mani schiacciate sul viso. 15 anni di coerenza, di fedeltà, e oggi un ribelle, un deviazionista. Allineato, solidale, con uno di cui i capi gli attestavano il deviazionismo. Inutile ricordare il giudizio sul Mazzola del compagno Pisani o il discorso, anche più chiaro, del federale di Torino. Inutile rifare per suo conto il processo. C'era la direzione aveva deciso per lui e per tutti. La direzione gli diceva: quello là ha mancato, deve pagare. Sentiamo che provvedimento tu gli applicheresti. Noi lo sappiamo già quello che gli spetta. Ti usiamo il riguardo di sentire il tuo parere. E lui, Ferranini, a rispondere: avete torto voi. Chi ha ragione è Mazzola. Io sto con Mazzola. Rimase forse 5 minuti seduto, immobile, col foglietto al ciclostile aperto davanti, come uno stupido. Rimediare e poi cavarselo persino dalla memoria. Prese fuori della carta, scrisse: risposta al foglio numero eccetera in data eccetera. Trattengo tale foglio per mia documentazione. Con riferimento al colloquio avuto dal compagno senator Pisani e dal sottoscritto a Torino col compagno Mazzola Roberto, comportamento politico del predetto Mazzola, a mio giudizio, ribellismo. Cancellò, scrisse: indisciplina. Corresse prima di indisciplina, mise velleità di. Una parola che gli piaceva. L'aveva usata diverse volte per descriversi alla sua amica. Di velleità me ne trovavo tante, ho mangiato pane e sogni per tanti anni. Indisciplina, viceversa, gli pareva una parola generica. Mazzola era qualche cosa di più che indisciplinato. Cancellò indisciplina, mise insubordinazione, sicché velleità di insubordinazione. Opinioni del Mazzola. Va bene, lui aveva assistito mentre Mazzola esponeva le sue idee, però come testimonio muto. Da giudice funzionava Pisani e la lettera della direzione era una conseguenza del rapporto presentato da Pisani. Quindi a lui bastava ripetere quello che Pisani aveva detto quella mattina. Scrisse: il Mazzola si dichiara contrario alla destalinizzazione, vorrebbe realizzare nella base un certo ingenuo estremismo. Sì. Ingenuo. Era la parola giusta. Aggiunse: le sue opinioni denotano una tendenza frazionistica, sebbene in buona fede, per motivi moraleggianti. Cancellò moraleggianti, scrisse moralistici e rigoristici. Sanzioni. Beh, meglio non esagerare. Mazzola è un bravo ragazzo, perfettamente recuperabile. Ammonizione solenne. Niente, non è il caso di dare troppa importanza. Scrisse: proporrei che al Mazzola fosse inflitta una ammonizione. Firmò, chiuse in busta la lettera, la nascose nel primo cassetto del commò. Poi riaperse il fascicolo del suo progetto di riforma della legislazione sull'infortunistica. Si era ricordato finalmente, da quanto tempo soffriva di distrazioni, che non poteva andare a quel ministero per il fatto semplice che era domenica. Ammucchiò le carte, si infilò l'impermeabile. C'erano dei lati della faccenda, la faccenda Mazzola, che non quadravano. Nel mattino sporco, nella strada domenicale vuota, Ferranini camminava e ragionava, grigio e scontento. Camminava e si inquisiva, sotto la pioggerella che gli intrideva fredda i capelli. «Sii sincero, Ferranini, il punto non è nemmeno quello. A te non ti interessa che ci abbiano mandato Reparatore o Pisani. In questi giorni, dopo la gita a Torino, non ci hai più pensato alla storia di Mazzola. Te ne sei dimenticato per stare tranquillo. Sapevi che lo avevano condannato e ti dava fastidio doverci mettere la firma anche tu. Ma no, non è vero. Io sono col partito, io ero col partito. Sì che è vero. Presto o tardi ti dovevano dire ratifica, pro forma, solo per completare la procedura, però ratifica. Adesso è venuto il momento e ratificare ti dispiace. Mazzola ti è simpatico. Beh, sei stato con lui un paio d'ore l'altra mattina, per te non è che uno sconosciuto, ma lo silurano. Cosa vuol dire? Ne hai visti tanti di siluramenti in politica e fuori, non ti commuovi per così poco. No, diciamo la verità, è che le idee di Mazzola assomigliano molto alle tue idee, ma molto. E allora delle due l'una, o tu lo riconosci e ti metti con lui e rispondi «mi dispiace, ma anche Ferranini dovete punire», oppure se mandi la lettera, quella lettera che non è per niente una formalità come vorresti credere, se la firmi e la mandi, fai una porcheria. Adesso scegli. Era in Piazza Colonna. Cercò una cabina telefonica. Voleva telefonare al Reparatore. Quello se ne infischiava dell'ortodossia e la faccenda Mazzola la conosceva. Era l'uomo da potergli dare un consiglio. Chiamò. Rispose la signora Francesca. «No, Giobatta non c'è». Eh già, quando mai se n'è stato in casa? È un meridionale. «Ferranini, mi raccomando, non ti dimenticare». «Cosa? Che mercoledì sei invitato, non puoi mancare. Un amico di famiglia, ti pare? Guai se manchi». «È vero. Lo sposalizio. Si sposa la figlia. Io mercoledì sono a Reggio Emilia, ho degli impegni. Liberati! Per Giobatte è un dolore se manchi tu». «Vedrò». Rifece piano piano la strada verso casa. Del resto, a che scopo telefonare? Reparatore, il suo parere, l'aveva messo fuori sino da principio. Lui al processo Mazzola non ci aveva voluto assistere. Quando ebbe svoltato l'angolo di via della Scrofa, cambiò idea. Non aveva voglia di andarsi a chiudere in camera. Alle 4 doveva parlare a Frosinone, la solita storia della domenica. Decise di andare alla stazione per prendere il primo accelerato in partenza. Avrebbe mangiato a Frosinone, all'albergo Cesari. Si mangiava bene. Ma era senza testa quella mattina. La ciociaria si acquattava malinconica sotto un piccolo diluvio. Il comizio, indetto in Piazza Libertà, all'ultimo momento fu trasferito alla Camera del Lavoro in un locale dove entravano, epigiate, non più di un centinaio di persone. Per Ferranini furono due ore di pena. I suoi ascoltatori fumavano toscani e pipe e per quanti sforzi facesse, quel fumo, pur così proletario, lui non era buono di sopportarlo. Nella sala annebbiata e surriscaldata aveva gli occhi irritati e la tosse. Ogni 5 minuti doveva fermarsi per bere. Abbordò uno spunto di attualità che gli permise subito di passare a uno dei suoi argomenti preferiti. la impossibilità logica e politica di uno schieramento intermedio, terza forza, fra il blocco capitalistico e l'URSS. Bisogna scegliere o reazione o socialismo. E la scelta si impone in scala nazionale come nel grande scacchiere internazionale. Chi esita, chi cerca la neutralità o la equidistanza, se è in buona fede, finisce nel riformismo, così dà indirettamente il suo appoggio alla reazione. Se non che il tema del comizio, non lo aveva stabilito lui, comportava qualche riferimento alla dottrina. Ferranini stava dicendo che la storia umana è cominciata quando ci furono esseri in grado di produrre i loro mezzi di sussistenza e la storia è un processo condizionato dalla organizzazione sociale degli uomini. Un ascoltatore anziano, in prima fila, si alzò a interromperlo. Compagno, spiegaci, non abbiamo capito. Vi spiego in due parole. Ho detto che per un marxista gli uomini sono ciò che è la loro produzione, e cioè sono quello che producono e come lo producono. Dove c'è una produzione organizzata, sociale, lì ci sono gli uomini. Il vecchio non ci pensò tanto, tornò ad alzarsi. Ho capito, ma allora anche le api, io a casa tengo 12 arnie, sono uomini come noi. Ferranini rispose che nella realtà biologica esiste una gerarchia e le api, sebbene producano anch'esse socialmente i loro mezzi di sussistenza, non sono al nostro livello. Riprese di malavoglia il suo discorso e intanto rifletteva. Su che cosa possiamo fondare, in termini marxistici, una gerarchia della realtà biologica? Marx denuncia in Hegel una concezione animalesca dello Stato, in quanto fa consistere i titoli alla sovranità dei monarchi sullo Stato in ragione di selezione animale, di appartenenza a una specie, in senso zoologico, che si pretende più eletta. Marx dice bene, quei criteri sono stupidi e bisogna condannarli. Ma in questo caso, come si fa a dimostrare che la società delle api è inferiore alla società degli uomini? Poi ad una giornata tutto a rovescio gli andava. Lo riaccompagnarono a Roma in automobile e prima delle 7 rimetteva piede in Piazza Colonna. Una serata di domenica da solo, a Roma, senza Nuccia. Era anche quella una novità poco piacevole. Mentre dava un'occhiata al giornale per vedere i programmi dei cinema, gli si avvicinò un giovanotto con gli occhiali, distinto. «L'onorevole reparatore l'aspetta». «E dov'è?» «Siamo lì, in quel caffè. Io sono il fidanzato di Assuntina». Entrarono nel caffè dove Giobatta troneggiava fra le sue donne, seduto a un tavolino, e poppava convinto il suo toscano. Non gli diede tempo di parlare. «Sì, hai telefonato, mi cercavi? Eccomi qui, ti presento mio genero, uno delle tue parti, Vicentino precisamente, controllore delle ferrovie dello Stato. Bravo ragazzo, quanto al resto della famiglia sono le mie padrone, tu le conosci? Siedi qua, Walter!» Ferranini le conosceva bene, le due ragazze Nina e Assuntina, e la loro madre. Appena arrivato a Roma, all'inizio della legislatura, aveva abitato un mezzo mese in casa dell'amico. Assuntina, la fidanzata, gli piaceva anche, tonda e morbida come un'oliva, timida per quanto il padre era ispido ed espansivo, con due occhi neri, umili e ridenti. Assuntina si arrischiò con la sua voce nel tuonare di quella paterna. «Mercoledì viene, vero?» «Oh, bada bene», intimò il padre. «Se non vieni, non mi sei amico. Boatta è in viaggio, amoruso e ammalato, guai se mi manchi tu». «E poi», aggiunse Giobatta, senza ascoltare ragioni, «è facile che ci sia il compagno Maccagni». Il viso di Ferranini cambiò espressione. «No, dici davvero? Maccagni l'ho invitato e ha accettato. Eravamo intimi in altri tempi. Se appena gli è possibile, penso che verrà». Uscì dal caffè col viso disteso. Quell'incontro con Giobatta e famiglia, brava gente cordiale, lo aveva tonificato. e la mattina dopo, appena sveglio, riprese la lettera sull'affare Mazzola. Sentiva di non avere più esitazioni. Massimalismo ingenuo, revisionismo moralistico e, come provvedimento a carico, ammonizione. Ma se andava bene, un giudizio equilibrato. Che Mazzola avesse espresso apprezzamenti, opinioni che coincidevano con i suoi privati apprezzamenti, con le sue personali opinioni, era vero, ma viene il momento che uno le personali opinioni le deve mettere da parte, se no stiamo freschi. Se no si ricade nell'atomismo anarchico che il comunismo ha superato da un pezzo, proprio in quanto è arrivato a essere un grande movimento di massa, unitario. D'un tratto la questione gli si chiariva luminosamente. Come, compagno Mazzola, parli di disciplina e vai contro la disciplina? Coerenza ci vuole. Tu, Mazzola, diventi personalista col tuo antipersonalismo. Diventi individualista per combattere l'individualismo. Ma se è proprio in nome dei tuoi principi che bisogna darti torto. Come avrei torto io se, visto che la penso come te in diverse cose, al posto di fare la propagandetta a Frosinone mi mettessi a fare il riformatore del partito? Il partito ha un grande capo, che ci pensa lui a raddrizzarlo se occorre. Noi siamo dietro di lui. A noi tocca eseguire, ubbidire e lottare se occorre. Si meravigliava di aver avuto una perplessità. Anzi, ci andò di persona. Portò la lettera in direzione e alle 10 la cosa fu sbrigata. La sera era passato a prenderla in libreria. Nuccia lo trovò di buon umore. Bene, Walter, sono contenta. Che cosa ti succede? Niente. Hai qualche cosa in vista? Domani vado a Formia a trovare Amoruso, che ha l'influenza. Dopodomani c'è il matrimonio della figlia di Reparatore. La camera è in vacanza, no? Vacanza anche per me. Nuccia invece era giù. Cercava di risalire il suo abbattimento. Non sapeva dove aggrapparsi. Aveva passato il pomeriggio della domenica a Frascati dalla sua amica. Questa le aveva suggerito di cercarsi un avvocato fra i colleghi di Walter. Bisognava stabilire che diritti e casomai che doveri le assegnasse il codice. Non c'era che sentire un avvocato. Provò a accennarne a lui. Sì, nel mio gruppo avvocati ce n'è, anche troppi. Il fatto sta che la tua non è mica una storia matrimoniale delle solite. C'è di mezzo, in un certo modo, la disciplina. E quelli sono vincolati alla disciplina di partito a loro volta. Il partito, la macchina che si era messa in moto contro di lei. Era stupido pretendere di trovare proprio nel partito chi la aiutasse. Sicché, Walter, sono sola. Mi lasci sola. Uscirono insieme per andare a fare acquisti. Lei si distrasse un po'. Le aveva chiesto di aiutarlo a scegliere il regalo per l'assuntina Reparatore. Prima di tutto ti ci vorrà un vestito blu. Tu non l'hai, vero? Non l'aveva. Beh, ci vado vestito così. Io non sono un elegante come Montobbio che porta le giacche di Camosio. Un comunista non ha bisogno di essere elegante. Intanto Cruscio fa dei bellissimi vestiti blu e il tuo Maccagni vedrai che compare in blu e cravatta grigio perla. Tu dici? Ma certo. Sarà. Però non ti permetto di dire il tuo Maccagni. Rispettiamo chi va rispettato. Tuttavia l'obiezione l'aveva colpito. Era già rassegnato a andare da Zingone quando gli venne in mente la soluzione ideale. Il giorno dopo, a Formia, avrebbe chiesto in prestito il vestito a Amoruso. Come taglia, erano uguali. Restava il regalo per l'assuntina. Ferranini propose una rosoliera. «E che cos'è?» domandò Nuccia sorpresa. «Un servizio per rosolio, bottiglie e bicchierini». «Per l'amor del cielo, è vero! In qualche commedia di Pirandello arrivano dentro con la rosoliera. 40 anni fa, adesso la gente beve vodka a bicchieroni. Hai vissuto 15 giorni in casa di riparatore, devi sdebitarti. Manda un frigorifero, che so, un televisore, un giradischi. Nuccia suggerì di sentire dalla moglie di riparatore se per caso non glielo avesse già regalato qualcun altro. Le telefono io, sono faccende più da donna. Ma era destino che in ogni cosa ci fosse il veleno per lei. Erano entrati in un negozio di elettrodomestici in via Due Macelli e lei stava col microfono in mano. Walter la fermò. È meglio che tu non chiami. Perché? Dicevi che hai già telefonato una volta. Adesso telefoni a nome mio. Non facciamo che aggravare. Prendo quello che ho detto e non se ne parla più. Lei riagganciò il telefono e non rispose. Walter aveva ragione. Tornarono di là a scegliere il giradischi. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.